Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Nostalgia, nostalgia canaglia. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Permetteteci la citazione musicale, la contaminazione dei livelli, se volete, ma era troppo ghiotta per non approfittarne. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, è protagonista proprio la nostalgia, nuova chiave di successo per molte categorie di prodotti e di servizi. È l'ingrediente evocativo per i marchi cosiddetti dormienti, che tornano protagonisti dopo un lungo letargo. A questo dedichiamo l'approfondimento della settimana, ed è anche lo spirito retro che pervade moda, design e molte esperienze nel divertimento, ed è il tema del focus sui trend. Partiamo però come sempre dalle notizie e curiosità della settimana. Torna la giornata nazionale della colletta alimentare. Sabato 28 novembre, in oltre 7.600 supermercati, più di 100.000 volontari inviteranno le persone a donare alimenti non deperibili. Saranno distribuiti a circa 1.300.000 indigenti attraverso gli 8.000 enti convenzionati con la rete Banco Alimentare. Si chiamano Zuzu Pets e promettono di conquistare il Natale. Sono i primi criceti robot interattivi, una moda che sta facendo impazzire milioni di bambini dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Tra i segreti del successo, anche il costo, solo $10. Riparte la quinta edizione di e4people.com, il portale di e-commerce in cui la moda sostiene la solidarietà. Ideato dall'associazione Baby nel Cuore Onlus e sostenuto quest'anno da Alta Gamma, proporrà articoli griffati di moda e design a prezzi contenuti, proventi devoluti a favore dell'Abruzzo. Sono già nella waiting list di Repetto i mocassini di Michael Jackson. Lo storico negozio di scarpe e accessori per la danza di Parigi, fornitore dell'opera, celebra così il re del pop e la sua leggendaria camminata moonwalking. Tod's contro Prada. Dopo la vecchia battaglia ingaggiata per il marchio Church's, ora è guerra per gli outlet fra i due titani della moda. Teatro dello scontro, Sant'Elpidio a Mare, patria della Tod's, dove il comune ha autorizzato i lavori per l'outlet di Prada, nell'outlet Village, posizionato proprio di fronte allo spazio aziendale della Tod's. L'azienda di Diego Della Valle ha presentato ricorso al TAR contro il comune. La borsa della spesa. Fiat 500, Moncler, Burberry, Moleskine, Brion Vega, cosa hanno in comune questi grandi marchi? Il fatto che siano rimasti in letargo per molti anni prima di tornare nuovamente al successo. Sono casi da manuale, per così dire, per chi si occupa di marketing. In gergo tecnico si chiamano sleeping brand, marchi dormienti appunto. Quali sono le opportunità di mercato? Quali i rischi che si possono correre? Ne abbiamo parlato con Mirko Nesurini, autore di Rebrand, come svegliare i brand che dormono. In questo momento c'è un grande bisogno di storie vere, di brand dormienti posseggono delle storie affascinanti. Lei scrive: in teoria tutti sono pronti ad acquistare un prodotto che ha rappresentato un successo della loro infanzia. La prospettiva cambia però quando si è provato il prodotto, perché i gusti cambiano. Che cosa significa questo? Significa che il prodotto legato ad un brand storico deve assolutamente essere attualizzato. Non si ripropone il passato sotto forma di prodotto, ma si ripropone il passato sotto forma di personalità di marca. E quindi il brand che ritorna deve assolutamente ritornare con un prodotto innovativo, un prodotto al passo con i tempi attuali e non quelli nei quali ha avuto successo nel passato. È necessario comunicare in modo importante e a pari livello, come se il brand fosse un brand lanciato in questo momento. E poi bisogna lavorare in modo ancora più importante sul prodotto per non deludere il consumatore precedente. Se il consumatore precedente ha, e lo si spera quale premessa per il rilancio di un brand, una percezione positiva di quel brand, la deve assolutamente confermare. Quali sono gli ingredienti di un marchio che torna ad essere protagonista dopo anni di letargo, per così dire? Dipende da settore a settore. Nel settore alimentare il prodotto deve essere eccellente, deve riprodurre i gusti del momento. Nel settore del lusso o del superfluo deve avere una carica evocativa molto importante. La crisi ha in qualche modo favorito l'analisi di strategie di marketing come questa, nel senso che si è andati a rovistare un po' tra gli scaffali, oppure è il periodo meno opportuno per rinnovare e rivitalizzare un marchio in letargo? Beh, c'è un grande bisogno di sicurezze, la nostalgia evocata da questi prodotti del passato è un elemento importante che sta portando al successo alcuni brand. Oggi nel momento di incertezza ci si rivolge al passato, dove si ricordano delle primavere positive. Ci sono diversi livelli di interesse. Intanto in circolazione ci sono diverse aziende storiche con dei brand quasi assopiti che hanno la necessità di essere rilanciati. Dall'altro lato c'è il consumatore che è pronto a recepire delle novità che vengono dal passato, e quindi è un momento molto importante per il tema di rilancio di brand storici. Quali sono invece i pericoli di una strategia di rebranding rispetto al lancio di un brand ex novo? La struttura è la stessa, gli item di valutazione sono identici, il valore competitivo di un brand storico rispetto a quello del passato è il contenuto in termini di valore e di storie e la possibilità che il consumatore precedente si approcci ad un ulteriore acquisto. Esistono invece brand storici che non hanno mai smesso di essere vitali, che cosa hanno di diverso? C'è una battuta che il brand più invecchia più diventa bello, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista dei contenuti. È come una persona anziana è molto affascinante perché ha una storia dentro di sé, la può raccontare. La stessa dinamica accade per un brand. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di consumi alimentari. Dalla grande distribuzione arrivano segnali negativi purtroppo per il prossimo Natale. Le ricerche di mercato dicono che nel largo consumo alimentare la crisi è appena iniziata, calano infatti le vendite in volume e in valore. E siamo però alle porte di Natale, che in genere dovrebbe compensare molti dispiaceri delle vendite. Dovrebbe, perché fino allo scorso anno il Natale è stato entusiasmante per tutti, crisi o non crisi. Quest'anno invece la crisi montante ha creato dei dubbi sacrosanti sia nelle industrie di marca sia nelle catene di supermercati e ipermercati. I motivi sono diversi. Innanzitutto la diminuzione del reddito delle famiglie, mancanza di vera innovazione anche nei brand più conosciuti, il futuro incerto che riguarda molti segmenti della popolazione. Il problema però non sta nell'aumentare l'offerta di prezzi bassi, bensì cercare un bilanciamento fra alto e basso di gamma. Soprattutto nell'alto di gamma c'è spazio di mercato. Lo hanno capito bene i manager di Conad Adriatico, che a Natale dedicano per i dettaglianti associati un apposito salone annuale chiamato Le Vie del Gusto, che diventa sempre più ricco di produttori e prodotti. Nel salone vengono presentate novità, soprattutto artigianali, che possono supportare le vendite di Natale. Le categorie che più hanno centrato l'obiettivo sono state quelle dei formaggi freschi, con molte opportunità offerte da piccole e medie aziende. Questo è un segmento di mercato difficile, ma gli assaggi incrociati ai quali abbiamo partecipato hanno permesso di individuare un erborinato di pecora dell'antica cascina di 12 mesi, un piatto da gourmet, e poi nei salumi un prosciutto nero dei Nebrodi di Ronchey, davvero eccezionali. Anche nel pane stanno emergendo nuovi modi di produrre e di presentare il prodotto. Il panificio Ultimo Forno ha presentato un pane di Matera fatto con una vecchissima ricetta. Sapete quanto dura conservato in un luogo fresco e asciutto? 15 giorni. Allora, buon Natale. Frequentare locali retro dove si consuma, ci si veste e ci si diverte come 20, 30 o 40 anni fa. Seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Oggi eccezionalmente non è in studio con noi, è in collegamento telefonico. Buon pomeriggio Patrizia. Buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parliamo della nostalgia, una tendenza consolidatasi ormai da tempo ma che non smette di rinnovarsi e riattualizzarsi. Alla nostalgia possono essere ricondotti molti stili come il vintage, il retro, anche nella loro declinazione neo-vintage o nouveau retro. Un trend che sta ad indicare tutti quei prodotti che abbinano un'estetica nostalgica a un cuore high-tech. Lo spirito che si rifà al passato pervade moda, design, pubblicità e arriva persino, eccola qui la novità, negli stili di vita. Patrizia. È interessante ricordare da dove arriva la parola nostalgia, perché è una parola che viene usata, introdotta per la prima volta nel 1688 da uno studente di medicina di Basilea, che la coniò unendo due termini greci, nostos, ritorno, e algos, dolore, per indicare il dolore per la lontananza dalla patria, da casa, quindi un riferimento nostalgico che è passato da questa dimensione spaziale, cioè la patria, la casa, un luogo lontano, al tempo, quindi alla irreversibilità del tempo, quindi la nostalgia è il dolore per ciò che non torna, come la giovinezza. Quindi abbiamo sia una dimensione di spazio che di tempo, questo mi sembra interessante, e il fatto che ricorsivamente il marketing, il mercato, dalla moda al design, ma anche il cibo, oggetti e prodotti culturali del passato ripropongano appunto sia in termini spaziali che temporali cose che non potrebbero essere nel nostro presente, è un modo molto efficace per fare leva sulla dimensione nostalgica del nostro spirito, per rapirci un po' l'anima e portarci da un'altra parte. Pensiamo al presente, in questo momento sta risorgendo un marchio come Polaroid. Nell'era digitale, che di fatto ne ha causato la crisi e il ritiro dal mercato, verrà rimessa in produzione la mitica macchina fotografica istantanea, quella originaria, alla quale però naturalmente viene affiancata la Polaroid 2, cioè la prima fotocamera digitale con stampante incorporata, quindi una macchina piccolissima che emetterà proprio come quella originaria le foto in soli 40 secondi. Poi pensiamo al successo dei libri vintage, sia nell'estetica che nei contenuti, e qui si spazia dai libri guida ispirati al passato, questa sorta di vademecum di Galateo, di Bonton, da altri tempi, dai rimedi per la casa e la bellezza, insomma testi pieni di sapienza antica, segreti al femminile, ma abbiamo anche romanzi sulle vite, diciamo, delle signorine old style, non solo ambientati nel passato come la storia di un matrimonio di Greer che racconta gli anni 50, ma proprio ripescati e ripubblicati, come nel caso di Zia Mame di Dennis, che è uscito appunto per la prima volta nel 55. Rimanendo negli anni 50, una delle serie televisive di culto, per esempio in questo momento, è Mad Men, racconta le vicende professionali di un'agenzia pubblicitaria di Madison Avenue, da qui il titolo Mad Men, e le storie private di chi ci lavora. Nei paesi dell'ex blocco sovietico, l'ostalgia ormai è una vera e propria filosofia di vita che trova il suo oggetto cult nella Trabant, l'auto simbolo della Germania dell'Est. L'abbiamo vista sfilare anche in occasione delle celebrazioni per i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Comparsa sul mercato nel 1957, nata come l'auto del popolo tedesco dell'Est, la Trabant è rimasta in produzione fino al 1991. Ne sono stati venduti circa 3 milioni di esemplari. Celebre per il motore a due tempi, senza pompa dell'acqua e con raffreddamento ad aria, il maggiorino in salsa sovietica ha trovato il riscatto dopo la riunificazione, soprattutto tra i nostalgici del socialismo reale. Recentemente al Salone di Francoforte è ricomparsa in versione elettrica e di lusso. La New Trabi, tinte pastello originali, forma démodée, promette di diventare un successo commerciale al pari delle nuove Mini e 500. Per i fan della Trabant suggerisco anche un film, è dei primi anni 90, lo spirito è proprio quello post caduta muro, si intitola Quella Trabant venuta dall'Est. È una commedia che racconta il viaggio verso l'Italia di una famiglia che parte dall'ex Berlino Est. Analogamente a Mosca si parla di Soviet nostalgia, ci sono locali a tema, serate evento. Patrizia, è una tendenza che anche altrove si ritrova nel settore entertainment? Sì, questo fenomeno degli eventi a tema nostalgia, diciamo, è molto ampio ed è un mood che connota molto precisamente l'entertainment. Tu hai citato la Russia, lì mi riferisco a Mosca, in particolare analogamente a Berlino, i club retro in cui chi entra è anche accuratamente, creativamente, filologicamente abbigliato secondo stili ed estetiche di epoche diverse, insomma in questo caso sovietiche, sono veramente molti. Tra l'altro è anche uscito un film, Stili Aghi, letteralmente stylish, stiloso, sulla moda, sugli stili delle subculture giovanili sovietiche proprio tra la fine degli anni 40 e i primi 60, che è un successo strepitoso. Ma appunto il fenomeno è molto vasto, pensiamo a New York, esattamente come nel 29 bar e locali offrono esperienze di clandestinità in pieno mood proibizionista, quindi bar in cui si entra da porte senza insegna, si sta quasi al buio, ci si sente proporre con i modi, le frasi, insomma è una lista di bevande, esattamente ciò che si beveva negli anni 30. Ancora a Parigi, al Café au Passage, un locale che era chiuso, che il vecchio gestore ha deciso di riaprire per serate molto speciali. Una di queste è il concerto di ukulele di artiste come Marie Darling e Uni. L'ukulele era, forse qualcuno lo sa, lo strumento che suonava Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo. Quindi di nuovo nostalgia, gusto retro con immaginario cinematografico. Questo rappresenta l'aspetto interessante che attrae i clienti in questi locali. Anche qui le artiste, ma anche il pubblico è abbigliato in stile per l'occasione. Non è obbligatorio, ma insomma è questo il senso del divertimento in serate come queste. Ancora a Santiago, grazie a uno spazio all'avanguardia come il pub Catedral, torna di moda la cueca, un ballo popolare cileno del passato e fatto soprattutto dei giovani che si ritrovano così con il tipico fazzoletto sventolato sopra la testa e si cimentano nel ballo dei propri nonni. Cosa c'è di nuovo a Bogotà su Nostalgia e dintorni? Questo è il momento delle segnalazioni delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E rimanendo in tema di intrattenimento, Armando Records è il locale principe della movida colombiana, la cosiddetta rumba. Il locale altro non è che l'appartamento al quinto piano di un edificio anni 70 di Armando Fuentes. Ma chi è Armando Fuentes? A Bogotà è una personalità. Abbandonata la città natale alla fine degli anni 70, si trasferisce a Londra per diventare una rockstar. E qui pare che con la sua band, gli Stary Dogs, riesca a sfornare perfino delle hit di successo. Dopo 15 anni di eccessi, ritorna nella sua città per diventare, con il nome di Armando Records, un importante manager di artisti. Raggiunto nuovamente il successo, decide alla fine dell'anno scorso di trasformare casa sua nel locale più ambito della vita notturna cittadina. Tutti i particolari dell'arredo, dalle sedie alle lampade, ai tavoli, alle piastrelle, riprendono lo stile degli anni d'oro della sua carriera londinese, in pratica raccontano la storia dei gloriosi anni 70. Sull'ampio terrazzo si balla e si improvvisano concerti e alla porta c'è selezione perché, chiaro, mica fai entrare chiunque a casa tua. Il locale naturalmente fa il pieno di giovani che quegli anni neanche li hanno vissuti se non attraverso la vita di Armando, ma attenzione perché Armando non esiste, è il frutto dell'immaginazione e dell'abilità imprenditoriale di cinque giovani amici che hanno creato dal nulla una leggenda metropolitana, hanno in pratica inventato di sana pianta un mito vivente di cui hanno indotto memoria e nostalgia. Grazie Alessia, una bella operazione di marketing, ben riuscito. Patrizia, il rischio di queste sperimentazioni può essere quello di cadere, per così dire, nel passatismo, di un recupero un po' sterile del passato? Come evitarlo? Dunque, direi che questo rischio non c'è, anche quando i recuperi sembrano dei taglia incolla, nel senso che ogni volta che si fa una selezione, un campionamento di pezzi dal passato, lì si riaccomoda nel presente. Comunque che si tratti di prodotti, di eventi, tutto viene ricontestualizzato, reinterpretato e quindi in ogni caso dall'oggi attribuiamo dei significati diversi a ciò che torna dal passato ed è questo il gioco che funziona. Essere avere @radio24.it, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Appuntamento come sempre a domenica prossima dopo il GR delle 13, in replica ve lo ricordo il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.